diabete arrivando che sei una prostata. Mario, controlla l'antenna. Adesso sei a fondo scala. Thank you. perché ho già sentito il primo campanellino, no? Tra due minuti stacco, faccio una carichetta e poi un'altra oretta me la faccio. Positivo, quindi anche tu eri indaffarato stasera, dai. Cappa, che avevo questo impegno, allora. Tanto sì che ero libero stasera, ho telefonato, ho fatto fare il vaccino con il gattino, poi mi sono andato a fare la visita io, ho fatto tutto. Tutto a posto? Tutto a posto, tutto a posto. Meglio così, che siamo sempre così le visite, allora. Sono con il capo, ti va.